mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Hey! Hey! Italia! Hey! Hey! Hey! Hey! Hai capito a me, hey. Italia! Hey! Italia, oh, Italia, svegliati, oh, hai capito me, oh, oh, Italia, svegliati, hai capito me, Italia, Italia, oh no. Mia bocca giù da bocca miseria, oh svegliati ragazzi, Italia sveglia, bocca puttana, ci vediamo, ciao ciao ciao ciao. Comunque io chiamo perché sento troppe stronzate sui musulmani. Allora, io sono sposata da 15 anni con un uomo musulmano, ho tre figli con lui. Esatto, con un muslim, Marocco, Casablanca. Chiama me scema, Crucia, capisci? Certo, mulatti, carini, che glielo dici? Cioè. Ma guarda, guarda, ti assicuro che è una leggenda metropolitana quella dell'africano dotato. Pronto? Mi riallaccio alla telefonata della signora che ha sposato il marocchino. Io conosco delle donne che hanno sposato i marocchini, ma sono dei cessi, sono brutte, sono un quintale, sono orrende. Giuseppe, io ti ascolto da 9 anni, scusami, e volevo dire, l'altra sera quando parlava il professore con le piccole labbra debordate, era molto interessante. Perché Parenzo ti interrompe sempre anche quando parli di cose mediche che possono essere... Questo è un tema interessante. Maria dice, perché Parenzo interrompe quando si parla di cose interessantissime come per esempio le piccole labbra che sono magari debordate. Perché cara ed educata signora, Cruciani lo fa non per dare le distinzioni mediche. Mi sei antipatico e non ti sopporto proprio, e quando ti vedo alla 7 cambiamo canale. Ma lei per caso nella sua vita le è mai capitato di squirtare? Questo no, io non so nemmeno questo fatto di fuoriuscire di quest'acqua che a volte ti sento parlare così, mi viene da ridere, ma io non ho idea di questa cosa. Questo forse negli adolescenti capita. Giuseppe, ciao, sono Giovanni di Reggio Calabria. Sì, Giovanni, che dicevi? Giovanni, scusa? Perché tu sei riccione, tu sei. Ma no io, David. Eccoci qui, caro David. Va bene. Ti faccio sentire subito la frase del giorno che riguarda per fortuna è già cosa? Mercoledì. Vabbè, per fortuna è già mercoledì. Ma che c'entra, scusa? No, così sono per passati dire. 2 giorni e mezzo dall'inizio della settimana. Per fortuna è già mercoledì. Ah, tu dici domani è giovedì e poi praticamente uno può già pensare al fatto che per 2 giorni, cioè il sabato e la domenica, non sentirà questi miserabili che non hanno nulla da fare, che chiamano l'800 24 00 24. La frase del giorno riguarda le molestie, la storia di Brizzi, la storia dei produttori, la storia dei registi. E chissà che dopo il mondo cinema non tocchi al mondo della televisione, per esempio, certo, o al mondo della radio. Come al mondo della radio. Magari certo. Cadranno delle teste anche lì. Certo, no, nel ma mondo anche della radio 24, no, magari radio 24. Anche in altre radio. No, Radio 24, sai, no, per carità. Magari comunque, la frase negli del giorno... studi di Milano tra le 18:30 no, e le 21, no, ma magari. No, non no. lo so. Ah no, tu hai già il problema dei Panama Papers, è vero, con la tua. Ma come avete fatto a portare tutti quei soldi là? Voi? Guarda che è Crociani, non Cruciani, Crociani. Vabbè, ho sbagliato. Crociani, Crociani. Male, piccolo errore, nessuno fa mai errore. Abbiamo fatto un errore, sicché Pisapia era Pisapio. Abbiamo sbagliato. Poi racconterai agli ascoltatori che cosa ti diceva una volta anni fa l'avvocato Taormina su di me, su questo punto di Crociani e Crociani. Dopo. Allora, frase del giorno, Nancy Brilli. Studio di Vespa rimasto praticamente agghiacciato da questa frase. Questa frase molto molto zanzaresca. Si parla naturalmente, ma qualcuno ci ha provato con te, qualcuno ti ha messo le mani addosso. Adesso capito, scoprono l'acqua calda. Scoprono, vai. Questo produttore mi mandò un tizio che non avevo mai visto, che mi venne a prendere invece del runner normale, e mi disse: ma guarda che questo produttore è molto interessato a te, ti trova che tu possa avere un grandissimo futuro nel cinema. E io gli dissi: vabbè, un po' tanto anziano e poi proprio non sono interessata. Questo si girò molto aggressivo verbalmente, non mi ha sfiorata per carità, e mi disse: ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Allora, non mi ha stuprata, però un filo mi sono irrigidita. Vabbè, adesso questa non è che una molestia, avete sentito il silenzio e lo studio di porta a porta con, oggettivamente con Vespa che ha fatto cazzo più ciucciato d'Italia. Il cazzo più ciucciato d'Italia. Fai tagliare questi pezzi? Perché? Che poi ci sono gli industriali che tornano dopo giornate in cui, dopo dei board internazionali. Ma che è porta a porta? Ho capito, ma tu perché dai questi ordini di tagliare? Già lo taglia quel miserabile di La Corte, regista, che dovrebbe essere detenuto a Guantanamo. Già lo taglia, perché devi suggerire oltre misura? Però ragazzi, come a me queste robe qui, che per cui non si fanno tensione, mai nomi. Tradimento. A me questa cosa qui per tensione. Tensione. Tradimento. Però ragazzi, questa roba qui per cui nessuno. Perché non mandiamo solo questo in una puntata? Dalle 18:34 fino alle 20. Ma dai su, cosa? Mandiamo solo questo. La gente si diverte comunque. La gente che non fa i nomi, sì, un po' mi sta sui coglioni. Beh, finalmente allora, viene dalla mia parte. Per un'altra. Fare i nomi. Mara Venier, no? Io ho sempre detto questo. Mara Venier. No, Mara Venier, perché io lo voglio anche bene, però racconta. La dice, zia Mara. Esce una notizia clamorosa. Sono stata molestata da un politico importante. Uno dice: cazzo, vai a vedere dentro, no? I siti, eccetera. E poi scopri che cosa ha detto la signora Mara Venier. Una sera, circa 25 anni fa. Circa 25 anni fa. Con due amici e altre 10 persone andai a cena a casa di un politico molto importante. Ovviamente non dicono mai il nome, no? A fine cena mi dice: vieni a vedere i miei quadri? Io vado, vediamo sti quadri. Poi quando torniamo in sala da pranzo scopro che gli altri, anche i miei due amici, sono andati via, erano tutti d'accordo fin dall'inizio. Gli dissi, lei disse a questo politico: guarda che hai capito male. E me ne andai. E cos'è, una molestia questa? È una molestia questa! C'era il trucchetto per farti restare da solo con quel politico. Poi gli hai detto di no e te ne sei andata. Trucchettino. Dai, su, ma che cosa gli dico? Molestata da un politico importante. Ma quale molestata? Sei rimasta da sola in casa, ti hanno fatto rimanere da sola e poi te ne sei andata. Non c'è nessuna molestia. Ragazzi, ci sono un sacco di cazzate che vengono dette. Una marea di cazzate. Oh, il regista Neri Parenti. Il regista Neri Parenti, l'abbiamo detto già ieri, l'abbiamo detto già nei giorni scorsi. Credo che fosse alle Iene. Non prenderebbe le attrici che denunciano Brizzi. No, mi pare da Circo Massimo. No, ma senti, sì, no, pure da quello due giorni fa. Ma ieri era alle Iene, senti. Probabilmente c'è stato un equivoco. Essendo io amico di Fausto, avendo dichiarato precedentemente che io non ci credo, io non le prenderei per il fatto di dire delle cose che secondo me non sono vere. Poi dice: se fosse vero, Brizzi è uno stronzo. No, non è uno stronzo, è un criminale. Cioè, se fosse vero che quello le ha molestate, gli ha messo le mani addosso, si è masturbato davanti a quelle, non è uno stronzo solamente. Perché dice stronzo? Di qualcun altro si direbbe un criminale. Sì, no, questo non c'è dubbio. È uno stronzo. No, non è solo uno stronzo. A me questa copertura, questa aristocrazia che si no, difende. No, non c'è nessuna copertura, fastidio. Guarda, non c'è nessuna copertura, perché Virzì l'altro giorno ha detto delle cose molto chiare. No, non c'è, no. Se no fai passare il principio che il mondo del cinema protegge. Virzì. Sto dicendo Neri Parenti, ma no, copertura sembra una cosa generale. No, copertura, capito? Cioè, se fosse vero, è uno stronzo. No, non è uno stronzo, è un criminale. Se Fausto Brizzi le dicesse che è vero, o se venisse fuori in maniera inequivocabile, lei a Fausto Brizzi cosa direbbe? Che è un suo amico da tanti anni. Che è uno stronzo. Allora, tu poi ti domandi, no? Perché a Berlusconi, a Forza Italia, stanno sui coglioni i grillini, no? Cioè, perché adesso c'è un attacco, c'è il nemico vero adesso, di, se tu vedi anche il giornale e cose di questo tipo, c'è un fuoco di fila sui grillini, no? Anche Berlusconi, sono praticamente i nuovi comunisti per Berlusconi, i grillini, si può dire questo, no? Sì, bravo, allora, hanno sostituito la gioiosa macchina da guerra, senti, bravo. Di Battista che cosa dice, poi alla fine scopri varie cose, scopri anche il perché di alcune solo per posizioni. Sapere, solo per sapere. Senti, solo per sapere. Se dovesse andare al governo, noi cacceremo dalla RAI i partiti, è un lapsus freudiano. Faremo pagare Mediaset le tasse giuste e aboliremo qualsiasi forma di finanziamento diretto e indiretto all'editoria. Come se Mediaset non pagasse tasse giuste. Adesso non so a cosa si riferisce esattamente Di Battista. Però stangata fiscale su Mediaset, poi dice che te vanno addosso, amico mio. Senti, allora, ti presento un signore che si chiama... che si chiama Paolo Del Genio. Sai chi è questo Paolo Del Genio? Che non è affatto un genio, eh? C'è tensione, tradimento. Perché usa la O così? C'è tensione, tradimento. Allora, sai chi è Paolo Del Genio? Mi manda i mani. No, sai, no. No, giustamente non lo sai, cioè, no. Non è un genio, è a mio parere un cretino totale, è un cretino patentato, uno che si picca di conoscere il pallone, che spesso mi dà dell'ignorante, ma questo chi se ne frega, uno che vuole fare il competente. Senti come se ne è uscito sulle lacrime. A proposito, Tavecchio non si dimette, parentesi, poi ci torneremo su questa cosa. Tavecchio non si dimette. Senti che cosa dice sulle lacrime di Buffon. Hai visto Buffon che piangeva? Sì, almeno le immagini le avrei viste alla fine della partita con la Svezia, comunque assolutamente dopo, no? Sì. Buffon è una delle immagini, diciamo, della disfatta dell'Italia. No, una delle immagini più belle è l'allenatore che pulisce il... Bellissima pure quella, sì. Quella dà l'idea del paese, che pulisce lo spogliatoio, no? Lo spogliatoio probabilmente anche quello italiano, capito? No, quello della nazionale italiana. Senti questo qua che dice, questo Paolo Del Genio, napoletano, cronista napoletano, non so che cosa fa in una radio, non so dove parla, che cosa dice, che cosa fa. Comunque è uno degli speaker importanti della città di Napoli, del Napoli. Senti. Però su Buffon piangeva, devo dire, che chi di voi... apro un sondaggio, non apro lancio un tema. Chi di voi ha visto una lacrima vince 10, gli vado a portare 10 euro. Se mi manda un'immagine con una lacrima che scorreva, io a ognuno che mi manderà un'immagine con una lacrima gli porto 10 euro. Tanto non caccio una lira, perché non c'era una lacrima, ragazzi. Era uno sforzo per fare vedere, fingere una commozione, ma non è uscita una lacrima. Sfido chiunque a trovare un'immagine dove c'è una lacrima. Può benissimo non piangere. Io critico il fatto che fingeva, di piangere, quello critico. Perché sì, è una sceneggiata. Quello, una sceneggiata. Pensa un po', vabbè. E mi disse: ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Ecco. Allora. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cazzo, ce l'avessi una scuola per il mio figliolo con la maestra mussoliniana. Gli comprerei anche gli stivaletti ai bambini. Segnerei tutte le mattine quando entri in classe e batti i tacchi insieme. Ta! Sentito l'invettiva contro la professoressa Parenz, fai proprio pena, sei proprio un ebreo, guarda, fatelo dire che c'ha ragione Mauro da Mantova, guarda, mi dispiace dirto. Parenzo vuole mandare la gente ad Auschwitz? Beh, il vero nazista sei tu, Parenzo, sei tu il vero nazista. Allora, torniamo per un attimo sulla vicenda Fiorella, che vi sta molto a cuore, caro Parenzo, perché sì. Io, come sai... Fiorella è, non Fiorella Mannoia, riprecisiamo, sì, né sì. Tantomeno l'economista Fiorella, no, Costoris. È una professoressa. È una professoressa revisionista. No, non è revisionista. Dichiaratamente per fascista, no. Che ha telefonato alla Zanzara. Ha detto di avere delle simpatie fasciste. Dicendo sì. Di avere delle simpatie fasciste. A quel punto cosa ha fatto Parenzo? No, non ha semplicemente fatto nulla. Minacciato... cosa che farà, no. Perché gli ha dato 3 giorni di tempo per chiedere scusa, l'ultimatum scade venerdì, ha detto che si rivolgerà al Ministero della Pubblica Istruzione. Ma che ti frega? A che il ministero, nella sua totale autonomia, decida se mandare o non mandare degli ispettori per vedere se la signora insegna. Ma che fai? Il cane da guardia della Fedeli? Il cane da guardia della Fedeli? Che sei? Il cane da guardia della Fedeli? Dai, su, dai. Bau, bau, bau. Allora, comunque, il tema non è questo. Io sono tutta la vita dalla parte di Fiorella. Libertà di opinione. Libertà di opinione. Ma cos'è la libertà di opinione? Non insegna il fascismo, non insegna a diventare fascisti. Non fa le. No, non l'ha detto lei. Non fa le fascismo. No, non lo fa a scuola. Non lo fa a scuola. Importante che non lo faccia a scuola. Importante non lo faccia a scuola. Hai detto che lo fa a scuola? No, non l'ha detto. La tua amica Fiorella. No, non l'ha detto. La tua amica Fiorella. No, ma non ho nessuna difficoltà a dire che Fiorella. Non saremo, posso dirti, non saremo né io né te a decidere, né tantomeno questa cosa. Ma tu non devi andare da nessuna parte. Sarà il ministero della pubblica istruzione. Il tuo metodo è intimidatorio. Hai un metodo intimidatorio in questo caso. Democracy. No, ma non è democracy. Che vuol dire? Vai a rompere i coglioni al ministero su una, dai. Chiedo che vengano mandati gli ispettori. Ma è uno strumento del ministero quello di mandare gli ispettori. Se poi la professoressa risulta consona nel suo insegnamento a quello che è il dettame, benissimo. Il 90% degli ascoltatori della Zanzara è dalla parte della libertà di espressione di Fiorella. Non gli ascoltatori, quelli che chiamano. No, gli ascoltatori sono tutta un'altra cosa, sono molto per bene. Quelli che chiamano sono, come ormai sappiamo, dei miserabili. No, ormai chiamano nazisti. Fino a un anno fa chiamavano fascisti. Ora chiamano i nazisti. Oltre il nazismo cosa c'è? Poi chiamano dei comunisti che secondo me neanche durante la rivoluzione d'ottobre, improvvisamente. Io non ne ho sentiti talmente comunisti che incitano la rivoluzione d'ottobre. Cioè ormai siamo al delirio in questa radio. Non in questa radio, perdon. In questa fascia oraria. Ti ho detto prima che Tavecchio non si dimette. Tavecchio, sì. Ma non è una cosa strana, ragazzi. Cioè, perché dovrebbe rinunciare a una poltrona? In fin dei conti che cosa è successo? Nulla. L'Italia non parteciperà a un campionato del mondo, che è la mission della federazione. Guarda, meglio così mi faccio tutto in onda tranquillo questo estate sulla 7, senza quelli che cambiano canale per vedere il calcio come gioca l'Italia. Sei proprio un poveraccio. Posso dirti? Benissimo. Detto sotto, benissimo. Sei un poveraccio. Sai quanti ascolti mi rubava la nazionale? E invece giugno e luglio non c'è neanche più il problema. Con chi gioca? No, niente, fuori da campionato. Via. Travaglio, se ne riparla tra qualche Travaglio. Anno. Sentiamo Travaglio, squadra di Pippa, allenatore Pippa, presidente Super Pippa. Non è che ci vuole un genio per dire una cosa del genere. Vabbè. È un momento in cui non abbiamo campione, abbiamo Pippe, e quindi quando mandi in campo una squadra di Pippe con un allenatore Pippa e un presidente Super Pippa che non riesce a fare un gol alle Pippone della Svezia in due partite, beh, non ci può stare. Ventura, che ci posso fare se siamo stati eliminati? È lo score più alto degli ultimi 40 anni, ma ragazzi, è veramente una cosa incredibile, dai. Che mondiali saranno senza Italia? Brutti, questi brutti. Si immagina st'estate come staremo a guardare gli altri giocare? E che ci posso fare? Cioè, purtroppo è andata. Ma che vuol dire purtroppo è andata? Si poteva far meglio, cioè non ha sbagliato sempre la formazione. Guarda, ieri ho detto chiedo scusa agli italiani per il risultato sportivo. Per il risultato sportivo, ma sono due anni che stiamo facendo molto male. No, perché lo score mio è quello è uno dei migliori degli ultimi 40 anni, ho perso due partite in due anni. Ho capito, dipende quale partita perdi. Se perdi quelle decisive, che ci frega delle altre? Una roba incredibile, dai. Allora, dove andiamo? Andiamo a Alessandro Firenze, vai, Alessandro. Ciao Cruciani, dimmi. Prima di tutto grazie a Parenzo che ci ha dato dei miserabili a prescindere, quelli che telefonano all'800 24. No, c'è una percentuale bassa di maggioranza silenziosa che ogni tanto si fa sentire. Dai, veloce, vai Alessandro. Detto questo, volevo dire, mi meraviglio che si possa far parlare lui di calcio, lui insiste su questa storia di stranieri, non ci ha capito veramente una mazza fionda, perché gli stranieri di cui parlavano ieri, il tema principale è che gli stranieri non sono gli stranieri figli di genitori eccetera. Sono gente che viene comprata dall'estero, messa nei settori giovanili, e allora non hanno è quello il tema, non è chiaro, c'è sta dicendo che non avevi capito una mazza, Claudio forza, eccomi, ci sono, dimmi. Buonasera, vai veloce, vai forza. Allora io volevo fare due considerazioni. La prima a Cruciani. Allora, tutte le sere, a un certo punto il discorso va a cadere sul fatto se la donna c'ha il pelo o non ha il pelo. No, tutte le sere no, qualche volta. Qualche volta. Non è vero. Qualche volta. Qual è? Parliamo di Nasdaq, non ti interessa? Indice Nikkei. Non ti interessa come argomento? No, Cruciale, io non quando, ti interessa? No, io quando conosco una donna, magari mi passa per la testa quella cosa lì. Lo sai che invece io una delle prime cose che penso è se è depilato oppure no? Amico mio, che devi fare? Io una delle prime cose che penso, incontro una persona, ma sarà depilata oppure no? Sarà una deformazione professionale? Un po' sì. Sarà una malattia? Non lo so. Io sì, una delle prime cose sì, che penso, sì. Ma questa qua ce l'hai, peli o non ce l'ha? Perché poi passo ad altro. Poi però una delle prime cose dico, ma sarà depilata? Beh, non un po' si una depila? Malattia, però possiamo dircelo tra di noi, tra amici. Così, ma tra sì, amici. Per carità. Io ti abbraccio fortissimo, ti conosco da 10 anni, ormai ti abbraccio, voglio bene. Posso dirti che è un tantinello una malattia questa? Può essere, ma che dico, ognuno ha le sue. No, per carità, figuriamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024. Oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. E mi disse, ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Allora, non mi ha stuprata. Allora, tempo fa, caro David, intanto ti segnalo che abbiamo avuto 27 minuti di interruzione, tra tutto. Il telegiornale? No, 25 minuti, a parte non è il telegiornale, ma è il radiogiornale, dopo 7 anni ancora manco l'hai capito. Io 25 minuti di interruzione, cioè non sì, di più. Blocchi ottimo, delle macchine. Ottimo. Ma ottimo un cazzo, blocchi ottimo, delle macchine. Ottimo, tanta pubblicità. Sì, sì, ma non c'entra niente. Le macchine che si bloccano, le macchine che si bloccano, lasciamo perdere. Le macchine, lascia perdere, va, lascia perdere. 25 minuti di interruzione. 25 minuti di interruzione. Ah dai, su, dai. C'è tensione, tradimento. Ah dai, su, dai. C'è tensione, tradimento. Voci da Napoli contro l'Italia. Vai, fatemi sentire sta voci da Napoli, va. Lei non è italiano. Sono napoletano. Lei non tifa. Sì, per Napoli. Magari massimo per l'Argentina. L'Argentina è un po' di Belgio, ma è giusto un poco. Perché un po' di Belgio? È per Mertens. L'Unione Europea. No, Mertens, attaccando questo, scusa. Ma come ne fotte, si dà? Li sono napoletano, te, io tengo due sangue. 1926 a vita. Iaghira ci ha fatto di fa Svezia. Forza Svezia! Lei non è patriottico? No, noi andiamo lì, l'Italia è tutto qua, tranne Giorginia Insigne. Non si augura la morte. Ah no, allora deve cadere solo l'aereo, scusa. Dolore? E dolore non c'è. Dolore? Nessun dolore. È meglio che è uscito. Il rammarico, no? Lei è contrita? No. È uscita l'Italia dal mondiale. Ma chi ce ne fotte? Ma che la namori tutto qua, da namori? Giovanni, provincia di Varese, vai Giovanni. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi, vai. Senti, no, volevo intervenire sul tema topico del disboscamento. Sì, per ottimo. Dare una notizia clamorosa che c'è una minoranza riguarda silenziosa. I forestali, però questo riguarda la Sicilia, guarda, il tema dei forestali in Sicilia, no, probabilmente. No, assolutamente no. E come perché no? C'è una minoranza silenziosa anche su questo. Io fin da bambino conduco questa battaglia. Sono tantissimi i forestali in Sicilia. E avevo fatto 2 anni fa, quindi posso mandarti prove documentali, una relazione al Rotary addirittura. Addirittura? Sì, sì, sì, al Rotary. E tu fai parte del Rotary? Sì. Ma che sei, un imprenditore, un commercialista? Sono un professionista. Un professionista che fai parte del Rotary, un avvocato, bene. Allora, approfittando del fatto che nel Rotary l'età media è molto alta e approfittando del fatto che secondo me il disboscamento selvaggio ad opera delle estetiste è un vero e proprio crimine contro l'umanità. Non avevo capito. Io avevo sollecitato addirittura i soci anziani a raccontarmi, infatti feci questa relazione dal titolo Chi l'ha vista? Beh, ottimo mi sembra. Che effetto ha avuto questa relazione? Eh no, in cui invitavo i soci anziani a raccontarla a quelle più giovani, perché dico qui arriveremo al rischio negazionismo, no? Volevo addirittura che venisse messo sotto tutela dell'UNESCO. Ovviamente per tutta una serie di ragioni molto più elevate di quelle del buon Rocco Siffredi, piuttosto che del buon Sgarbi e quant'altro. Ecco, ma voglio cito capire. Solo due passaggi velocissimi. Sì, cita due passaggi, sì, della tua relazione, della tua relazione sul disboscamento. Sì, li cito per sintesi. Vai. Perché gli avevo detto, racconto spesso ai giovani che la topa era molto diversa dall'immagine chemioterapica post-operatoria che vedono oggi, ridotta così com'è a misero taglio sulla tela della femminilità, come i quadri di Fontana, più simili a crudi tendati a male, mero reperto autoptico. Beh. Quella che era un'oasi lussureggiante, misteriosa, avvolgente, che induceva stupore, rispetto, venerazione, ormai ridotta ad arido deserto da torme scatenate di estetiste senza scrupoli, quasi una discarica abusiva di sottoprodotti del consumismo più becero. E poi l'avevo messo un po' in filosofia, nel senso che gli spiegavo... Una specie di fusaro, praticamente, sì, un fusaro del disboscamento della vagina, della vulva. Il disboscamento fa parte di tutto un fenomeno sociologico più ampio, dove la forma viene soppiantata a vantaggio della funzione. Tolto quello non rimane più nulla, rimane semplicemente un mero orifizio fisiologico. Io dicevo all'epoca, parlo di 2 anni fa, deputato solo a secernere liquidi più che a cogliere solidi. Questo mi sembra una cosa interessante. Ecco, scusi, avvocato, lei ha fatto questa relazione in cui... Un maiale, questa cosa. Stiamo parlando di cose serie. Cose serissime. L'altra citazione, l'altro passaggio della sua relazione sulla vulva, qual è stato, caro? Se ne frega. Caro, com'è che si chiama questo qua? Si chiama Giovanni. Qual è l'altro passaggio? Qual è stato? No, era appunto questo. Dicevo che effettivamente quella parte il che taglio rappresenta... sulla tela, il taglio sulla tela mi sembra interessante. Ridotta oggi a un taglio sulla tela a un'opera di Fontana, giusto? Sì, ma anche l'orifizio fisiologico è deputato a secernere liquidi, perché tutti gli spot pubblicitari, se lei accende la TV a qualsiasi ora, c'è una che fa la plin plin, sull'altro canale c'è una che non fa nient'altro che cambiarsi gli assorbenti, e poi a mezzogiorno, quando io sono lì che sto per mangiare, viene fuori la vecchia, quella che ha problemi idraulici, che ha le perdite urinari. Per cui voglio dire, evidentemente faceva comodo a qualcuno ridurla proprio all'essenziale, questa visione... che invece aveva tutto un altro... È importante questa cosa, è il fusaro della vagina. Sta parlando di cose serissime questo avvocato, e che ha fatto questa grande relazione a Rotary, a mio parere andrebbe... Me la può spedire, per favore? Andrebbe cacciato da Rotary? No, me la può spedire a Cruciani Giuseppe, @radiovenò, che @gmail.com. Mi spedisca questa relazione, se c'è, io la leggerò con grande piacere in diverse puntate. Egidio, provincia di Belluno, vai. Ciao, arrivederci. Dimmi. Egidio. Egidio. È pronto? Dai, forza Egidio, dai. Forza. Pronto, ascolta Cruciani. Io vorrei parlare un attimo con quel tuo vicino lì di Parenzo. Sì, non so se c'è. Fuori... Pronto? Sì, dai, forza Egidio, forza, dai. Niente, volevo tirare fuori la storia dello Ius Soli. Ius Soli che è tanto di moda al giorno d'oggi. E parallelo per un titolo, io vorrei parlare un po' di quelli italiani che raggiungono la pensione, che fuggono dall'Italia. E vabbè, c'è il diritto di fuggire dall'Italia per vedere la pensione, come dire, no, ridotta per quello che riguarda le tasse. C'è tutto il diritto Esattamente, no? Visto che allora... lui Soli viene rapidamente messo in funzione qui in Italia, dovrebbe entrare... Ma non si sa ancora, non si sa nulla da questo punto di vista. Egidio, cosa vuoi dire? Non ho capito, cosa vuoi dire? Rimettiamo in discussione tutto quanto il resto, cioè uno che fugge dall'Italia. Alfonso da Napoli, non vuoi dire un cazzo. Alfonso da Napoli, ciao. Alfonso. Che ha raggiunto la pensione. Non me ne frega niente, Alfonso da Napoli, vai. Salve. Allora, bisogna eliminare le persone velocemente quando sono troppo prolisse, quando non sanno che cosa dire, quando fanno ragionamenti troppo arzigogolati. Eliminare come le discariche. Alfonso, vai, dimmi. Allora, innanzitutto vi dico la verità, io se vedo il filo mi sa muscire il cazzo. Non so perché, ma questo è interessante. Attenzione, questo è interessante. Piace, stai dicendo che col pelo ti si ammoscia addirittura. Sì, però, amico mio, mi è capitato, anzi, addirittura ti dico il primo aneddoto con mia moglie. Così, attualmente, io l'abbiamo con mia moglie, lei aveva il pelo, niente, e io ho fatto scettero. Beh, interessante. Fermi tutti. Alfonso da Napoli dice: era felice che a sua lui... moglie di sentire che lei ne parla così alla radio, davanti all'ascolto di 2,5 milioni di persone. Sarà contenta sua moglie. Che trasmissione di merda. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Guarda, io ti denuncio, Naturalmente. Come Macron. Oh, questa storia del pelo che non c'è più è stata la cosa più bella degli ultimi 10 anni. Dio sia lodato e non rompete i coglioni, che è bellissimo così. Andate a fanculo. Parenzo, cambiamola insieme. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo. It's when the madness begins. I got hurt in my eyes. ragazzi, proprio nei momenti in cui la moglie difende Fausto Brizzi, la moglie, la Zanella vegana, forse alcuni di voi lo sanno, dicendo che sul mio marito ci sono soltanto delle voci, e per carità, su questo ha ragione, è legittimo, no, beh, voci, non ci sono solo voci, ci sono voci, delle testimonianze, cioè nessuno dirette, è andato in procura a denunciare, però ci sono delle testimonianze dirette, delle testimonianze dirette, sì, siamo d'accordo, dirette. Ma che valore hanno, no, le testimonianze dirette? Hanno valore, tu nome, puoi uccidere, cognome, nome, cognome, ma che andassero in procura non si fa in televisione, ma non su si può un più giornale. Andare in procura dopo 6 mesi, come sai, non si può più andare in procura. Comunque ci sono delle testimonianze dirette di persone che dicono che si è comportato. Qualunque cosa. Non mi pare qualunque cosa. Aspetta, io vorrei riflettere con te sul metodo. Vabbè, riflettiamo. Allora, intanto, mentre la moglie di Brizzi, io non sono colpevolista per niente, però mi sembra che molte cose convergano. No, ma sul metodo, cioè noi ci troviamo di fronte a un uomo con una figlia piccola, peraltro, una moglie. Il mondo di oggi è fatto anche di queste cose qua. Chiaro? Però fa schifo. Se tu non fai un cazzo, stai sicuro che non ci sono persone che vengono ad accusarti, non c'è dubbio, non di lo esserti dico masturbato per me. Davanti a te, su questo non c'è dubbio, lo dico però a tutela anche di persone. Ma tu sai che un ministro inglese si è ucciso per questo? Sì, per l'hai già detto, per carità. No, ma l'ho già detto, ma qui c'è in ballo la vita di una persona. Quella che ha detto di avere messo semplicemente la mano sulle ginocchia. Esatto, la vita qui di tre persone, una figlia che va tutelata, allora, una donna, cioè una moglie, e un signore che ha accusato delle peggiori cose, che è stato cacciato dal cinema, dalla sua come vita. La prendi, come la prendi la testimonianza di questa tatuatrice che si chiama Vania Stone? Ecco, anche la tatuatrice. Aspetta, Vania Stone, l'ho letta, che su una rivista, credo Grazia, fa questo tipo di confessione. Allora no, te lo leggo, sono una tatuatrice, lavoro spesso per il cinema, mi piace anche recitare e in passato ho fatto un paio di ruoli. Un giorno su Facebook Fausto Brizzi mi scrive dicendomi che ho un viso interessante e che gli piacerebbe conoscermi per forse usarmi in un film. Mi invita nel suo studio, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, mi trovo in un loft a 2 piani, lui mi fa salire al secondo dove ci sono una jacuzzi, una doccia e un letto. Io sono perplessa, ma lui mi spiega che lì a volte si ferma a dormire dopo il lavoro. Mi dice che vuole farmi un paio di foto e che mi devo spogliare perché i jeans e la maglietta possono nascondere eventuali difetti. Resto in mutande reggiseno, lui comincia a toccarmi, a fare apprezzamenti. Io mi sento a disagio, per cui mi rivesto di corso. A quel punto mi offre un massaggio. E lì accanto vedo la foto di una donna e gli chiedo se quella sia sua moglie. Lui mi dice che non lo è ancora, che si devono sposare 2 giorni dopo. E poi all'improvviso si spoglia e prende a masturbarsi. Io di solito sono una persona che reagisce, ma in quel momento ero talmente irreale che sono rimasta paralizzata. Mi fissava con occhi che facevano paura. Sono riuscita a sbloccarmi, sono saltata in piedi, gli ho gridato che era un porco, un pervertito. Dopodiché dice che è andata dalla madre, è andata dai carabinieri a fare un esposto, ma non è servito. Mi hanno detto che non avevo prove, che non potevano agire, non so neanche se mi hanno creduto. Vabbè, adesso che i carabinieri, questa infatti è la parte più debole di tutta la cosa, cioè che i carabinieri che interesse ha oggi a dire queste cose oggi? Visibilità, va a farsi tatuaggi da lei, che cosa? Magari ha subito, ho rispetto di questa persona e sicuramente avrà subito quel che racconta. Mi risulta un po' strano che se tu vai a fare una denuncia di questo tipo molto circostanziata, con il giorno, l'ora e il luogo, addirittura i carabinieri ti dicono: guarda, non possiamo accettarla. No, non possiamo accettarla, non ci sono prove, dunque un esposto. Ma la denuncia come... Ma che cosa vuol dire? È verosimile che i carabinieri ti dicano di fronte a questo dove tu lasci un documento? Ma stai contestando quello che ti dice questa qua? No, io dico che in un contesto come questo può saltare fuori chiunque. Maurizio anche dalla provincia di Milano. Ma chi è Maurizio? Stiamo facendo un discorso. Basta che ogni volta Maurizio, mandi uno di questi qua. Calma, si arrabbia, scusi, ha ragione. Non mette in mezzo la Madonna che non c'entra. No, scusi, scusate, sentivo che gridavo. No, ma per carità, ho detto, ma ha chiesto Maurizio. La possibilità perché Prego, che ho avuto la possibilità. Comunque, la cosa incredibile è che quando si trattava di Weinstein, tu invece difendevi Dario Argento. Dirti che il caso è completamente diverso. No, ma tu difendevi Dario Argento, certo, e continua a farlo nel merito di Weinstein. Per me le cose sono diverse, non è tutto un calderone. Maurizio, provincia di Milano, dai. Fosse tutto uguale, sarebbe semplice. L'unica cosa che oggi volevo, capisco tutte queste cose, soprattutto di queste violenze, di questo regista, per l'amor di Dio, però oggi volevo fare solo un regalo e soprattutto capire Parenzo cosa ne pensa di questo, perché ti sei dimenticati, è vero, l'Italia è fuori dall'Europa, è fuori dai mondiali, però signori, oggi bisogna ringraziare una donna di 95 anni che fondamentalmente ha dato una lezione a tutti quanti di dignità, perché è riuscita a vincere contro un governo che ve l'aveva buttata fuori da una casa in legno con questo freddo, e hanno sì, ha costretto il governo a modificare un decreto, non so che benissimo, e può tornare nella casetta di legno, può tornare all'interno di questa casa. Io volevo fare questo regalo, un ringraziamento a questa donna che ha fatto un ringraziamento, questo ha fatto i suoi interessi, cioè ha fatto il voleva rientrare nella casa e il governo ha provveduto, punto e basta, cioè siamo contenti, io sono contento, punto e basta, cioè... Ma certamente l'unica cosa che bisogna essere consapevoli che non vi è purtroppo soltanto quella donna, ma ci sono tante altre persone con la stessa possibilità, con la stessa difficoltà. Benissimo, Alex dalla provincia. Vabbè, benissimo, Alex dalla provincia di Prato, dai. Alex, dimmi. Dimmi. Oh, Alex. Niente, Paolo da Venezia, dai, Paolo. Sì. Dimmi. Pronto? Dimmi Paolo, dimmi. Sì, pronto, ciao, sono Paolo, sono membro della maggioranza silenziosa, un padaran di David Parenzo. Sì, si sente anche, vai, dimmi. Grazie. Sì, niente, io sì, cerca di risvegliarci un po', perché già ci stai facendo ammosciare le balle, come si dice. No, assolutamente, volevo intervenire assolutamente, te lo dico sul discorso farneticante di Salvini ieri. Sì. Cioè, il meticciato sarà l'unica ancora di salvezza per questo paese. Cioè, il meticciato è l'unica ancora di salvezza per questo paese. Ma perché dovrebbe essere l'unica ancora? Siamo destinati, ma lo dicono i demografi. Ma non è vero, ma hanno detto un sacco di cazzate nel passato. Ma può essere anche, ma perché questa certezza? Gli immigrati saranno il futuro di questo paese. Ma chi cazzo l'ha detto che deve essere per forza così? Magari sarà così. Ma perché siete così certi di quello che dicono i demografi o gli economisti, che hanno sempre detto una marea di minchiate negli ultimi anni? Lo sport è l'immagine del paese, della società. Allora? Infatti, prendiamo la Svizzera. Ti ricordi la Svizzera? Tu che di casa? La Svizzera è un paese di Parenzo. Quando giocava con Schulz e Schustenberg non andava da nessuna parte. Non qualificava neanche gli europei. Adesso invece che ci sono un sacco di naturalizzati. Adesso, ma noi siamo in ritardo. Perché noi siamo in ritardo? A noi mancano gli immigrati di seconda e terza generazione. Tu dici senza neri, non vinciamo. Abbiamo i ragazzini, sì, però tu vuoi dire senza neri, Paolo, state zitto un attimo. Tu hai detto senza neri non riusciamo a vincere, giusto? Questo vuol dire. Albanesi, ma c'è cioè le mescolanze hanno sempre portato all'arricchimento dei paesi, cioè gli Stati Uniti, se ci fossero ancora solo i pelle rossa, sarebbero gli Stati Uniti che sono adesso? Vabbè Paolo, però questo a me mi fa incazzare quando dici il meticciato è il futuro dell'Italia, gli extracomunitari sono il futuro dell'Italia, ma dai, su. È la passione per il running, l'atletica leggera. Ma che cazzo me ne frega a me? Cioè, l'atletica leggera, perché noi siamo un paese arretrato in sì, ma a me gli altri paesi europei bravissimo, che riescono bravo. A essere al passo. Senti, amico mio, a me di vedere un marocchino che diventa italiano semplicemente per vincere, non me ne frega assolutamente nulla. No, nulla. Perché gioca con la tua maglia. Ma non me ne frega niente. Non voglio importare i marocchini per vincere le Olimpiadi, la maratona. Questo succede però. I marocchini nati in Italia, italiani a tutti gli effetti, figli di immigrati che da in qua in questo paese. Ma questo 20, qua, ma sono italiani quando saranno coloro che ci consentiranno nello sport, come anche negli altri settori della vita ben più importanti, di tenere passo con benissimo, gli altri. Senza paesi. Extracomunitari, ma che bravissimo! Chi l'ha detto? Ma è così. Veneto, se è noi così. Ci affidiamo alla Lores, ai loro paesini, certo, il Granducato di Vicenza, certo. Santino di Livenza. Saremo destinati all'estinzione, cioè Parenzo, dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Siamo in tanti, anche perché a Vicenza quella Lores lì vive lì in quel paesino, non so neanche come si chiama, non mi ricordo. Ma a Vicenza è pieno di concerie dove lavorano, è pieno di se togliessi gli immigrati se gli immigrati sparissero improvvisamente dalla città della Lores, ma le concerie morirebbero, ma è ridicolo. Roberto da Salerno, preistorica. Innanzitutto, concordo pienamente con Parenzo, piccola parentesi, certo. La mia telefonata era per una piccola risata, una cosa simpatica, praticamente uno scambio di persona che ho avuto col signor Parenzo per qualche anno, praticamente qualche mese fa ebbi l'occasione di vederlo in viso, per, se non ricordo mai, Scherzi a parte, che prima non lo conoscevo sinceramente. Allora? No, io ero convinto da quando lo sentivo che fosse il mago Telma, per la voce... E la voce identica, infatti stavo anche mi ero ricreduto. Vabbè, dopo questa informazione che ci hai dato, che lo scambiavi per Mago Telma, una risata. Ma non nessuno si è messo a ridere. Giuseppe da Benevento, vai. Giuseppe da vai, dimmi. Uè, ciao Peppe, ciao Parenzo. Dimmi, vai, dai, forza. Ciao, ciao, io ho telefonato per quanto riguarda la trasmissione che parlava di quella insegnante della fascia storica. Sì. Niente, Parenzo per me si è comportato male, malissimo. Vabbè, dopo? Niente. Comunque non si deve si è comportato malissimo, niente, così. Hai solo questo da dire. Fatto il mio dovere di cittadino. Fammi parlare un attimo, aspetta. Il mio dovere di cittadino. Prima di tutto è poco corretto perché parla sempre addosso alle persone. Vabbè, poi istiga le persone. Poi? E poi mi sembra uno di quei tanti amici miei in passato che tutti quanti figli di professionisti, imprenditori, erano tutti comunisti. Io figlio di proletariato. Concretamente mi dicevo, altra, ma come mai? Questi sono tutti figli di comunisti e tutti quanti stanno bene a soldi. E io, poveraccio, non sono comunista perché? Dopo? Perché tutti quanti vedevano i cazzi loro. Bella banalità. Dopo bella questa cosa? Lui mi sembra la stessa cosa. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Con noi Alba Parietti. Ciao Alba, come molto va? Bene. Buonasera, come state? Beh. Siete ripresi dalle serate mondane? Ma serate mondane. Sì, cara, cioè, sì. Ti volevo chiedere una cosa, ma si sta parlando molto di molestie, come sai, in queste settimane. Ma a te personalmente, al di là di quello che hai raccontato, credo all'ieri, ti ha mai molestato qualcuno, che sia un regista, un produttore? Allora, a parte voi quando mi telefonate, dicevo, però sto scherzando e non mi va di scherzarne più di tanto. Cioè, non mi va neanche di scherzare più di tanto. Allora, io l'ho raccontato, una volta a 17 anni ho avuto un produttore che ci ha provato in maniera, se vogliamo dire, chiamiamolo galante, un vecchio trombone che prova a baciare una ragazzina di 17 anni, quindi anche minore. Perché non fai il nome? Per quanto mi riguarda è un vecchio porco. Perché non fai il nome? Non sono stata, non ho avuto nulla da questo signore nei film, cioè, quindi mi ha fatto semplicemente perdere del tempo. Non ho denunciato e non dirò nemmeno il suo nome. E oggi, perché non fai il nome? Perché è morto, ma che ci mettiamo a fare anche i nomi dei morti, non la finiamo più, qua bastano i vivi, guarda. Però magari questo qua ha molestato altre persone dopo. Ma non ha molestato, era un vecchio vecchio maiale che faceva comunque evidentemente così con vabbè, questo, che questo a 17 anni, poi più avanti? Più avanti, più che molestie, dal piano, come dire, nessuno ci ha mai provato. A me nessun avance, uomo mi ha provato. Aspetta, calma. Ma dal non provarci per niente, nel senso a mettermi in situazioni di grave mortificazione, perché capivo tipo corteggiarmi, fino a mettermi nelle condizioni di dover rifiutare le attenzioni di queste persone per non essere messa in una situazione di, come dire, ed essere messa in una grave situazione. Cioè, di ti corteggiavano per e poi. Ma insomma, uno corteggia perché normalmente ti vuole scopare. No, ma d'accordo, quello lo so benissimo. Perché ti vuole sposare. Sì, ma c'era in ballo un lavoro? C'era in ballo un lavoro, ma un qualcosa da fare? Certo, perché se no non considero queste molestie. Se uno lo fa nella vita privata, sinceramente. Ho capito, dunque basta dire di no. Cioè, basta dire di no. Ma di non là è vero che basta dire di no, perché se quella persona ha in mano il potere. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Però se tu non vuoi cadere. Non è un altro discorso. Se tutte dicessero di no, il problema non si può. Ma non è una stronzata. Piantiamola con questa stronzata. Ma non potete cambiare la natura dell'uomo. Non si può cambiare la natura dell'uomo. Basta dire di no. Praticamente stiamo dicendo, come Morelli, tra un po' dite che le donne sono tutte puttane, come ha detto Morelli. No, ma che c'entra? Tirare un cartone in faccia a uno che dice una cosa così, semplicemente perché siamo abituati a questo sistema. Beh, una parte di prostituzione c'è in tutte le donne come in tutti gli uomini, è uguale. La prostituzione è soprattutto di carattere morale. Vabbè, andiamo su allora, un altro le piano. Le persone sono abituate a prostituirsi a tutti i livelli. Ti sarà capitato anche a te di dire delle cose che non pensavi di poche, però, poche. Va bene, allora, a me zero, figurati, però questo, sai che cosa ha fatto? Sì, che tante volte la mia carriera sicuramente sia stata danneggiata da questo. A te ti sembra logico e normale? Le persone, secondo te, che mi hanno messo per esempio in condizioni di sentirmi ma chi sono? Facciamo un nome, facciamo un nome. Paura per me, per il mio lavoro. Facciamo un nome. Facciamo un nome. Non allora li faccio i nomi, perché la verità in fondo siamo proprio mafiosi nella mentalità e non c'è nessuna voglia di avere i nomi. Io spero che questa cosa non cambi il passato, perché non lo può cambiare, ma quantomeno cambi il futuro. Beh, oddio, se tu non fai, se nemmeno tu fai i nomi, però, cioè, se dice. Ma perché io dovrei fare i nomi per non lavorare mai più, per essere messa al bando tutta la vita, per farti un regalo a te che domani ti fai il che c'entra il regalo a me? Ma regalo a me che c'entra il regalo a me? Ma fai anche tu i nomi. Ma io mica sono stato molestato, né ho molestato qualcuno. Ma siccome dici che gli uomini devono cambiare, che questo andazzo va cambiato, e stai dicendo che qualcuno ti ha messo in condizione di sentirti mortificata, fai i nomi di chi ti ha mortificato. No, non si possono fare, dici, non si possono fare. Vabbè. perché purtroppo non me lo posso permettere, posso dirti. È della televisione chi ti ha mortificato, la persona di cui parlavi prima. Ascoltami bene, Cruciani, il punto è questo. I meccanismi sono da tempo e consolidati. Nel caso specifico, parliamo del povero Brizzi a questo punto, perché secondo me è una persona che, se è vero quello che si dice, metto il se, è una persona che secondo me ha bisogno di essere curato, è una persona che riesce a farmi anche pena in questo momento, perché tra l'altro io non godo mai delle disgrazie, questa è una disgrazia a tutti i livelli, per la moglie, per la figlia. Detto questo, ma qualcuno prima o poi doveva far un po' crollare questa situazione. Dunque sei contenta che sia crollato un po' di pepe al culo a questi uomini che rompono le palle dalla mattina alla sera, questo pensando che tutto sia dovuto? E allora? No, ma questo va benissimo, per carità, questo va bene. C'è sempre qualcuno che paga per primo, no? Quando succedono le cose. Probabilmente quello che paga per primo è una persona che ha più bisogno di essere curato che di altre cose, perché non stiamo parlando del più potente, stiamo parlando di una persona che faceva il mondo del cinema anche bene, che probabilmente ha, secondo me, se le cose che hanno raccontato sono vere, più che altro una persona che ha grande bisogno di essere curato, tutelato da persone che tu dici il primo, però c'è sempre qualcuno che paga per primo. Non è curioso che è venuta fuori tutto questo schifo a Hollywood, che storicamente è democratica e che considera Trump un sessista, un maschilista, eccetera? Mi sembra abbastanza curioso, no? Che questa storia è venuta fuori semplicemente perché è stata un'indagine fatta ad altissimi livelli che serviva a danneggiare i democratici, perché questo signore era legato a mani e piedi a tutto, alla Clinton. Ma come danneggiare i democratici? Ha danneggiato l'immagine dei democratici, eccetera. Sicuramente. Ma voglio dire, cioè, non ho capito, è un'operazione per danneggiare i democratici? Beh, li ha danneggiati nei fatti. Ho capito, ma non è un'operazione. Ma ho capito, mica non è un'operazione fatta apposta per danneggiare i democratici. No, ma il risultato è quello. Diciamo che se non erano appoggiati da qualcuno, difficilmente avrebbero potuto scalfiggere questo tipo. Come mai non è venuto fuori prima? Scusa, questo qua le molestie le faceva, lo sapevano tutti. C'è un'operazione di Trump, di uomini di Trump. Perché non vai a dire a Jane Fonda perché non hai fatto 20 anni fa il nome di Weinstein, perché sai appunto, perché erano complici. Ma perché erano complici. Non ti danno manco più la possibilità di dire A dopo. Allora, la politica, ti voglio chiedere una cosa. La conosci una che si chiama Nina Morić? Sì. Signora di Casa grande, Pound. Si candiderà con Casa Pound. Ma è un movimento la fascista, dama secondo nera, te? La dama nera. Guarda, ti faccio un piccolo parallelo. Casa Pound giustamente decide, se vuole, di candidare Nina Morić. A me, dalla sinistra, nessuno... 50 anni di militanza di tutti i tipi e trascorsi e rinunce economiche, ma mai chiesto di candidarmi. Pensa che paese è questo strano. Cioè, nel senso che lo avresti fatto, lo faresti ancora? Certo. Se qualcuno ti chiamasse, lo faresti? Mi sarebbe piaciuto che almeno qualcuno mi avesse detto: oh, te la pariente, hai rinunciato. Che ne so, ma se adesso Bersani, se adesso partigiano, non ha mai cambiato idea, tu, com'è che non è? No. Ma lo faresti più con Bersani o con Renzi oggi? Vabbè, ma che domande mi fai? Io sono, sono dura e pura, come brava. Una vecchia comunista, tra virgolette, scusa, adesso lei cominciano sul web. Una vecchia comunista. Io faccio figlia di ex partigiano. Certo. Sono dalla parte dei più deboli, quindi di Bersani. La Boldrini ti piace? La Boldrini ti piace? Sì. Ti piace la Boldrini? Mamma mia, ragazzi. Cioè, proprio i luoghi. Ma io sono contenta che le donne prendano potere sempre di più, perché forse così il mondo migliorerà. Vedresti come premier? Perché no? Che contraddizioni, per quale motivo non dovrebbe essere in grado? So. Tu quale premier vedresti? Per carità, per me la Boldrini, per me la Boldrini è peggio del peggio, cioè, per cui va bene, sono tuoi pareri. Assolutamente. Non dobbiamo pensarlo uguale. Assolutamente no. Ciao, ciao Alba. Ciao, ciao, abbracci, ciao. Mamma mia, ragazzi, la Boldrini premier. La Boldrini premier. Beh, non ci vedrei niente di male. Una la donna, Parietti, vede, ma che c'entra la donna? Ma siete malati, fissati con questa cosa? Sì, ci vogliono più donne al potere. Ma no, è una puttanata, è una puttana. Ma che vuol dire persone capaci, non donne? Anche, cioè, donne capaci ce ne sono tante, dai. Ma più degli uomini capaci. Ma cioè, non più donne stronzo, capaci, ma non è vero. In luoghi. Non è vero. In ruoli, scusami, è di un potere. Luogo comune. Luoghi comuni. Diminuisce il ricatto sessuale. Luoghi comuni, luoghi comuni. No, allora. Per no, la Boldrini, regina. La donna delle... non fa ricatti sessuali. Ma chi ha detto? No? Per la Boldrini. Beh, regi... dice o me lo dai. Per la o Boldrini, lavori. Regina delle banalità. A parte che è successo anche quello. Ma per la Boldrini, regina delle banalità. Recentemente ha detto una cosa: bisogna coinvolgere di più gli uomini nella vita domestica. Sì, anche questo è giusto. A mio parere è completamente scollegata dalla realtà. Il motivo è, anzi, l'esempio è Parenzo. Ecco, ma perché lì? Cioè, ad esempio, Parenzo, allora io in giro vedo solo schiavetti. Ma adesso non sto dicendo che siamo schiavetti. No, ma perché hai davanti? Vedo solo schiavetti. Gente costretta a pulire la merda dei ragazzini. No, vabbè, quarantenni o cinquantenni costretti ad alzarsi costretti. Di notte. Lo fai perché ti fa piacere. Costretti tuo figlio. A fare i turni. Ma è tuo costretti figlio. Costretti a portare non è il passeggino. Ma è tuo figlio. Se uno dicesse devi accudire Mauro D'Amanda, ma dico, guarda, ti mando Sabaetta, che, caro Mauro. Quando Mauro sarà totalmente infermo, cosa che magari poverino avverrà perché sta molto male, sarà lì a casa, bloccato, adesso. No, infermo, non ragazzi, nel senso, non potrà uscire, gli manderò Sabaetta. Con mio figlio gli pulisco il sedere volentieri, cose non è che mi fa schifo. Tutte cose che i nostri padri nemmeno ma concepivano. Ma non è vero, mio papà lo faceva. Ma non è vero, dai. Ti assicuro. Vedo in giro solo schiavetti. Mio papà l'ha sempre fatto. Mio papà l'ha sempre fatto. Ma non è vero. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da un'Africa immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non possa, a più non possa. Hanno cagato figli, figli, figli. Li stanno portando qui, qui, qui. Li stanno portando qui, qui, qui, qui. Io questi negri li faccio sparire. Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro. La Zanzara. Oh, Parenzo, ho ascoltato l'intervento su Brizzi e per la prima volta ti devo dire sinceramente complimenti. C'hai ragione, dalla prima all'ultima cosa. Hanno sputtanato un tizio senza che nessuno l'abbia denunciato, non ci sarà mai un processo, questo non avrà mai l'opportunità di difendersi, tranne che delle scuse, delle dichiarazioni che ha già rilasciato. Ma l'hanno sputtanato e l'hanno massacrato senza che questo sia stato dichiarato colpevole. È uno schifo, soprattutto il servizio delle Iene, che è una merdata colossale, con le attrici che non si fanno neanche vedere in faccia, quindi potrebbero essere comparsate o che cazzo vuoi che sia. Però c'hai ragione, bravo Parenzo, bravo. No Giuseppe, ma veramente tu pensi, o almeno si dice in giro, che la Boldrini potrebbe candidarsi presidente del Consiglio? Cioè, ma poi, ecco, a quel punto cosa c'è di peggio? Cosa ci può essere ancora di peggio a quel punto? Boldrini! Boldrini! Giovanni Reggio Calabria, avanti Giovanni Reggio Calabria. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao, ti voglio sempre bene Giuseppe. Non è una cosa che grazie, mi aiuta Giovanni, però Cruciani grazie. Nella ma sua... Ma non a quel ibrido Gremlis di Parenzo. Scusa, quel ibrido? Ibrido e Gremlis, somiglia un Gremlis. Ah, un Gremlis. Gremlin. Quindi a me non mi vuole, giusto? Lei vuole solo Cruciani, giusto? Ho capito bene? Certo, non ti posso vedere. Meno male. Anzi, ti dico una cosa. Meno male. Quella meno sera, male. Quando eri da quell'epigono di Santoro. Epigono, Santoro. Se epigono, ci fossi stato io al posto di Stefano, sì. Ti avrei fatto la faccia così. Eravate quattro contro di Stefano. Quattro contro dovevi capitare uno. Il fascista Giovanni. Era una specie di aggressione fascista, no? Una specie e di aggressione fascista. E io cerco di fare epigoni. Hai capito? Tu non ma capisci. Quando viene sua figlia a portarla via? Quando viene sua figlia come al solito a portarla via? Dici dai papà basta su. Dai andiamo alla casa. Mia figlia è più nazista di me. No ho capito ma mia figlia è più nazista di me. Meno male nazistella. Nazistella ho capito. Certo. Va bene. Certo. Denuncia, mi vai, denuncia. No, ma denuncia chi è? Io prego, c'ho 100 anni. Ai medici. Denuncia, quella professoressa. Ai medici. Denuncia, mi hai il mio numero di telefono. No, ma non voglio neanche averlo. Ai medici bisogna denunciarla lei, no alla magistratura. Ora che sta benissimo, Giovanni. No, io di dico testa, no. Saggio, poveretto. Di testa tu non dici, sta bene. Tu sei, guarda, sei come Mabilonio, perché sei ebreo, perché sei comunista, perché sei musulmano, musulmano pure, ergo sei ibrido. Vabbè, questo lo sapevamo già, lo semplicemente deficitario di testa. Quello è deficitario di testa, mancante. Quell'ippopotamo là di, sì, di caro, coso di quell'americano che viene di chi scrive libri qua. Ah, che sì, Friedman, scrive, Friedman, quello che parla come olio. Eravate tutti ma pensa contro, come parla lei? Ma se pensa come parla lei? Io, Lorenzo, avrei fatto un... Mamma mia. Che avresti fatto? Che avresti fatto? Sì. Intanto si sarebbe dovuto togliere la flebo e prendere le medicine solite che prende, perché lei non è una persona serena di mente. Lei non è sereno di mente. Io sono sanissimo. Ma hai capito? È discutibile. Non come te. È discutibile. Che fa il comunista. A proposito. No, no, a proposito. Sentiamo che novità. Il piccolo di Santoro. Sì. Ai giorni contati. No, come ecco giorni contati? Che senso? Perché in ora che... il fascismo sta imperando. No, che bello. Questo. Vedi quello che è successo in Polonia. Ma che c'entra? Le arrestiamo tutti. Certo, ma che c'entra? In che senso è giorni Gremlin contati? Questo non è Gremlin. Perché Gremlin? Spiegami perché. No, perché abbiamo visto il film. Non te ne ricordi Gremlin? I Gremlin. Si pronuncia diversamente, però non si pronuncia. Vabbè, così. Erano degli animaletti. Che cos'è? Una creatura. Gli animaletti là che era un cagnolino. E poi con l'acqua li ha trasformati in mostriciattoli. Sì. Ha parlato a Alain Delon. Perché sta parlando a Alain Delon? Perché le pigono di Santoro, cioè formiglie, dovrebbe temere addirittura? No, infatti, giorni... guarda, ma una volta quello là in Veneto, quando l'ha mandato Santoro, un Veneto gli ha detto baciami il... che io parolacce non ne dico, no, dille, facemi il la cosa qua, migliore ora che ha detto la trasmissione e fa la voce grossa. Ho capito, ma perché tu dici che torna il fascismo? Tornerà così. Il fascismo tornerà, dici? Il fascismo tornerà e alla soglia ormai e noi siamo qui pronti a individuarvi casa per casa, strada per strada, a stanare fascista per fascista. Non si preoccupi, siamo qui pronti a individuarvi, sì, individuarvi. Guarda, nei fatti come di erano i partigiani, individuarvi uno per uno, a denunciarvi alle autorità preposte. Hai capito? No, per fortuna adesso non andiamo, hanno sconfitto il fascismo, non andiamo, per fortuna. Non andiamo adesso a rimbangare queste cose. Ma tu sei così sicuro che siamo alle porte di un nuovo fascismo? Sì, siamo alle porte di un ospedale psichiatrico, siamo alle porte. Non hai visto? Cosa ha visto? Là, il mio amico Nello Musumeci. Signore, un nobile, persona per bene. Hai ma visto quello che ha fatto in Sicilia? Ho capito, però quello che non è fascista, però. È propedeutico. Se non lo capisce il Gemlis, spiegaglielo. Ma guardi che io ti do una notizia, a me piace Musumeci, Mi do una notizia. Alle elezioni nazionali. Sì, ma che c'entra il fascismo, però, scusa, io reputo Musumeci una brava persona. Aspetta, ma chi se ne frega? Giovanni, non ho capito perché ci dovrebbe essere proprio fascismo, ci sono le elezioni, dunque è una contraddizione, perché no? Perché? Ma non ti è bastato il comunismo, non ti è bastato il comunismo. Confuso. Non hai visto quanti misfatti che ha combinato, quanta gente è morta, ecco, diciamo che il fascismo non è che ha fatto proprio cose buone. Comunismo. E ancora su Gremlis va a parlare di comunismo. Mai parlato ancora di comunismo? Ma perché il Gremlin? Stasera sono affascinato dal Gremlin. Ma sì, no? Ma questa è la cosa migliore che ha detto rispetto a tutto il resto, diciamo, no? Scusa Giovanni, dici, una figlia che addirittura è nazista. Se fossi, ma non ho capito se è tua figlia, perché è nazista? Non ho capito. Perché sono cresciuti con me, un bella uomo famiglia, onesto, un galantuomo. Ma che beh, questo da dimostrare, questo è da vedere, questo è da vedere. Ho avuto opportunità di potermi inserire e me la sono filata. Perché non sono un ladro io, sono un fascista. Meglio ladri che fascisti. Beh, sei anche molto nazista. Questo è il tuo credo. Meglio ladri che fascisti. Beh, sicuramente, meglio un ladro che un fascista, senza dubbio. Comunismo. Avete rubato sempre. Dove ero io? Rubavano tutti. Ma a lei le hanno rubato tutti, l'intelligenza, diciamo lei gliel'hanno rubata proprio, anzi non l'ha mai avuta, questo è il suo problema, dai. Io non ho capito, ma tu sei nazista. Ho avuto occasione d'oro. Tu sei nazista. Io ho diretto un teatro, il Cilea, l'ho diretto io a mie spese. Io è un uomo di cultura, è un uomo di... Io ho portato José Carreras qua, io ho portato Pavarotti. Però poi è successo qualcosa nella sua vita. Ti posso mandare le foto. Ho portato i tuoi grandi cantanti. Ma sei anche un cantante lirico, tu sei un cantante. Tati Ricciarelli, Pippo Baudo. Sì, io organizzavo spettacoli. Ho capito, Giovanni, sì. Ma tu sei anche... Poi è successo qualcosa però nella sua vita, che evidentemente anche tu sei un cantante lirico o no? Ma che, semplicemente un matto mitomano. No, guarda, io sono un appassionato di teatro. Sì. Bene, questo amo l'opera e la musica classica. E sei nazista. E sei nazista. Ascoltare. E sei nazista. Perché da piccolo studiavo violino io. Ho capito, ma sei nazista. Sei anche nazista. Mia madre non l'ha capita. E non avevo preso questa opportunità. Ma sei nazista o no? Sei nazista o no? Mi ammirano tutti, direttori d'orchestra. Beh, io sono stato con Muti, ho portato Muti qua. Ho capito. Muti. Se non ci credi, ti mando le foto. No, per carità, ma poi è successo qualcosa però nella sua vita, evidentemente. Cioè, com'è che ti sei trasformato in nazista adesso? O lo sei sempre stato? Perché sì, sempre stato. Sempre. Perché amiamo l'arte noi. Noi amiamo l'arte, non la musica scellerata, la musica norregafonica, quella della sinistra. Ma che c'entra la sinistra con la musica? Sai come la chiamava Hitler? Scellerata. Musica scellerata. Adesso, vabbè, adesso io però non lo farei passare come un musicologo, francamente, Hitler. Cioè, no, come? Fammi una domanda di musica. Ma non me ne frega niente di fare la domanda di musica. Fammi Hitler musicologo adesso. Fammela su Strauss. Fammi una domanda di musica. Su tutti i musici italiani e europei. Ma fammi, te ne sai una. E te lo dico subito. Così, ipso facto. Ipso facto. Ciao, vabbè, Giovanni. Bene. Ciao. Arrivederci. Ciao, buona minestra. Ciao, bello. Ma allora rima. Giovanni Ragusa. Intanto leggo da qualche parte che è stata messa all'asta da Lamborghini una macchina che è stata donata al Papa. Cioè hanno fatto una macchina apposta. Vabbè, quello ci con sta. Il simbolo della città del Vaticano praticamente e con il nome del Papa, la firma del Papa sopra, e questa macchina è stata data in beneficenza. Ora io dico, sostanzialmente il Papa che fa pubblicità alla Lamborghini. È vero, no, che ci è sarà... la Lamborghini che si fa la pubblicità col Papa, semmai, sì, non certo, il contrario. Ma è uguale. Cioè il Papa... Il Papa non ha bisogno, nel senso che il Papa... No, pa, non è che lo Papa fanno si tutti fa con quelle pubblicità. Grandi aziende italiane. Non regalano... è capito ancora. Non ho detto che il Papa si fa pubblicità, figuriamoci. Il Papa però fa pubblicità alla Lamborghini. Indirettamente, sì. Amico mio, la Lamborghini, marca... Ma qual è il problema però? Marca automobilistica, va lì, fanno una macchina per una il Papa. Una grande macchina italiana, quando va in giro per il mondo, è anche orgoglioso, è un orgoglio dell'Italia. Ma io sto dicendo, nell'ottica dei fedeli, nell'ottica del Papa... Il Papa fa da testimonial, l'ha comprata, da testimonial alla Lamborghini. Ha un grande Medini, ma meglio che sia quella piuttosto che la Renault, no? A parte che sia passato altre è successo macchine, anche quello. O il Peugeot, o diciamo Volkswagen, BMW, diciamo tutte le marche del poi mondo. Va all'asta per beneficenza, per carità. Ecco, va all'asta appunto. Per beneficenza, ma è lo stesso. Comunque anzi, c'è... anche la BMW spesso ha regalato le macchine al Papa. Ti sto dicendo lo fa, dai. Che mette la firma sopra la macchina. La macchina è praticamente arredata, se così possiamo sì, dire, certo. Con il simbolo della città del Vaticano. Fanno questa macchina appositamente e poi e ci dunque, sono dei collezionisti che se la comprano. Un grande boost, come si direbbe, no? Un grande lancio pubblicitario per la stessa Lamborghini. Diciamo la verità, diciamo certo, le cose come stanno. Certo. Il Papa fa pubblicità alla Lamborghini e per il Made in Italy italiano. Quel cazzo che ti pare, comunque è così. Giovanni Ragusa, dai. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Ascolta, ciao, io, ascolta, io vi volevo intervenire sul discorso ancora delle molestie, ma ci avete rotto le scatole tutti quanti. E io personalmente, Giuseppe, non riesco a capire neanche te quando chiedi ad Alba Parietti di fare i nomi. Fondamentalmente, secondo me... Ma se uno dice di essere stato molestato, non si capisce perché non può dire nomi e cognomi. Allora, se la reputi capire, una cosa importante, se non la reputi importante... Il concetto della molestia, intanto dobbiamo capire il concetto della molestia. Vabbè, perché... ma sì, ma d'accordo, però se uno dice, guarda, questo qua mi ha molestato, questo qua mi ha fatto, questo qua... Scusa, oggi siamo con Mara Venier, che 25 anni fa racconta, Mara Venier, molestata da un politico importante. Poi vai a leggere... Ma cosa ha fatto? Non ha fatto niente il politico. Nulla, niente. Allora, anche... andiamo a domandare il nome e creiamo... veramente di ma cazzo, allora non dire pensare, allora che cazzo allora lo racconti dire, a fare allora, bravo, allora ti posso dire anch'io sono stato molestato perché nel mio ambiente le mie ragazze mi hanno toccato il sedere, ma secondo te questa è una molestia? Ma secondo te? E io ti dico oggi, siccome sono ho nella possibilità di assumere personale, voglio capire, io domani arrivo una ragazza X e sputtana a me. Ma dipende che cosa fai. Se gli chiedi di uscire e non fai nulla, non ti sputtani. Se, se chiedi, se esci, se ci esci, ci provi, e poi se lei non ci sta, non fai nulla, non ti succede nulla, zero. Noi abbiamo sentito delle situazioni per le quali le ragazze, fino a quando ci stavano, erano contente, tra virgolette, comunque in un ambiente particolare andava tutto bene. Dopo 20 anni, 25 anni, 3 anni, 12 anni si svegliano dal torpore. Forse non sono riuscite ad avere quello che volevano. E allora facciamo il nome, roviniamo le persone. No, io allora non funziona questo sistema. Ma che vuol dire non funziona? Io ti ripeto, cos'è che non funziona? Spiegami, cos'è che non funziona? Non funziona il servizio delle Iene, non funziona. Ma ragazzi, il servizio delle Iene sono testimonianze, tra cui due testimonianze con nome e cognome di persone che raccontano delle cose sul regista che si chiama Fausto Brizzi. Punto e basta. Cioè non è che fanno il nome di questo tizio qua, poi magari alcune non si vogliono scoprire, secondo me non va bene che non si vogliono scoprire, ma non c'è solo la denuncia anonima senza volto, ci sono pure nomi e cognomi. Adesso oggi ne è uscita fuori un'altra, una che dice di essere andata lì, di aver addirittura fatto un esposto cui poi non è stato vediamo, è stato dato seguito dai carabinieri. Fermo là. Cruciani, curati, che sei da manicomio. Curati, Cruciani, curati. La Zanzara. Nano Parenzo, guarda Focus. Che cosa dicono del tuo amico Stalin? Assassini maledetti. Ciao a tutti gli amici della Zanzara, ricordo a tutti che dovete ancora una cena, parlo con voi signor Cruciani, signor Parenzo, al signor Stefano Torre. Mamma mia Crucia, quanto amaravano le negre. Quanto amaravano. Viva la maggioranza silenziosa. Ciao Parenzo. Oh Mauro da Mantova, è che tu trombo, ma è che tu trombi vino te, o fora macchie. La Zanzara. E mi disse, ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Allora, non mi ha stuprata. Pronto, prima si parlava di Mussolini. Ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo papà. Andiamo, su, che torniamo in corsia. Questo è, no? Esemplare, direi. Aspetta, di fermo, una fermo. Sì. Come lotta, Parenzo, in culo alla sta fascista di merda! Ti denuncio! Hai finito di vivere! Oh microbo! Vai a pigliarla nel culo! Parenzo, grandissimo! Mamma mia, sto ascoltando il podcast, quanto sto godendo! Ti prego, falla cacciare Fiorella! Fascista del cazzo, falla cacciare Parenzo! Ti prego, falla per tutti noi, fallo per la maggioranza silenziosa, devi farlo, Parenzo, grande! Sì, però a onor del vero devo dire che sono arrivati molti messaggi contro Parenzo, adesso non possiamo metterli tutti perché sono decine, però adesso sembra che la situazione sia in pari. No, non soliti, è in pari. I soliti, cara Fiorella, noti, non è in dai. Pari, c'è grande solidarietà nei tuoi confronti. Ma purtroppo ciò non fermerà la segnalazione presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Non ci sarà però. Questa segnalazione. Ci Mario da Genova. Mando a tempo 3 giorni per chiedere scusa. Figurati. Se lei chiede scusa... Ma va... Io non venerdì non faccio l'esposto. Ma l'esposto? Ma chi sei? Come lo chiami? Chi sei? Sono un libero cittadino che voglio tutelare i ragazzi che vanno frega? In quella scuola. Ma non insegna il fascismo. Mario da Genova lo insegna, l'ha detto lei. Sfidiamo l'esposto, sfidiamo Mario i controlli del ministero. Genova, no? Mario che problema da c'è? Un Pronto? Organo terzo. Mario. Pronto, io volevo dire una cosa, no? Riguarda gli immigrati, specialmente a Parenzo. Che vuoi dire? Cattolico. Dimmi. No, non è cattolico. Parenzo non è cattolico. Volevo dire che nel Vecchio Testamento, Bibbia, sì, quando c'era il re di Babilonia che fece la torre per fidare Dio e tirare la freccia, Dio distrusse tutto quanto e mischiò le lingue. Mischiò le lingue. E ogni popolo certo. Dovrebbe andare nel suo territorio. Questa però, scusi, è una trasmissione di attualità, questa, il più delle volte. No, ma io voglio dire perché la Bibbia dice questo, che Dio mischia le lingue, allora, e ogni popolo deve stare nella propria nazione per non evitare dice le esattamente guerre. Questo però possiamo estenderlo così a oggi. Possiamo poi voglio dire un'altra cosa, che sentiamo. Queste stragi dalla Libia continueranno secondo me perché secondo lei, benissimo, il direttore, nuovo direttore della rivista Limes. No, perché? No, perché sono organizzate dagli scafisti per imporre poi al governo italiano a riprendere il taxi driver. Benissimo, degli ONG. Benissimo, benissimo. Queste sono due riflessioni che volevo fare. Non c'è ciao, tutto ciao, grazie Mario. Molte, è utile, grazie, utile, tutto utile. Io chiamerei il signor Rizzo, il comunista Rizzo, che nei giorni scorsi è stato sulla Piazza Rossa a Mosca a festeggiare l'anniversario della rivoluzione di ottobre. È forte però. Però con quali soldi è andato? Con i suoi. Va, prende anche un vitalizio il signor Rizzo. Chiediamo. Chiamate. Sì, chi è? Rizzo? Sì. Il compagno Cruciani, buonasera. Eccoci. Oh, ma c'è anche Parenzo. È per forza. Come proseguono i festeggiamenti? Come proseguono i festeggiamenti per la rivoluzione d'ottobre? Abbiamo fatto un corteo sabato con 5.000 persone a Roma. Beh, allora, guarda. Viva il comunismo e la libertà. Com'è andata sulla Piazza Rossa? Beh, emozionante. Io avevo giurato di non tornarci più. E invece? Era l'86 quando sono andato l'ultima volta. Si poteva per 100 anni potevo anche infrangere, ecco. No, ma si può anche evitare, insomma, non c'è nulla da festeggiare, 100 milioni di morti in tutto il mondo, il comunismo, Il capitalismo quanti ne ha ammazzati? Ma il capitalismo il capitalismo ha ammazzato di più del comunismo. Ma assolutamente sì, scusa. Ma il comunismo, quanti milioni di morti ci sono ogni anno per fame nel mondo? Ma che c'entra quello? Che c'entra? Contestualizzare. A parte che non sono 100 milioni, ma perché Stalin chi aveva di fronte? Vendola, c'era Hitler, c'era la Democratica America, c'era Vendola, la bomba non ti cioè piace, tu stai dicendo viva Stalin. Ma secondo te Stalin è stato un grande statista? Non ho capito, Rizzo. Ma vuoi che ti leggo Churchill o De Gasperi che parlano di Stalin? Ma ho capito, ma che c'entra? Ma è stato un grande statista? Era un assassino, un criminale assassino il signor Stalin. Voi dovete contestualizzare. Sì, sempre. Voi mi parlate di Cuba e pensate ai Caraibi o a Monte Carlo. Ma sono una... Andate ad Haiti e poi vedete... Ma sono una dittatura di anche di gente che ruba soldi al popolo, che sfrutta in maniera pazzesca Cuba, dai, su. Del mainstream. No, però io voglio dire una cosa, caro Rizzo. Innanzitutto sei andato a Mosca con i soldi del vitalizio, questo bisogna dirlo. Sono andato a Mosca ospite Zhuganov. Ospite di Zhuganov. Ma che meraviglia! Ospite, cioè ti ha pagato secondo partito. Ti ha pagato tutto lui, non ho capito. Eravamo ospiti. Come sei ospite? È la delegazione, come una volta. Ma Parenzo lo conosce. Abbiamo fatto Leningrado. Sì. Vabbè, non si chiama più Leningrado per voi. Perché per te si chiama Leningrado, non ho capito. Certo. Leningrado. Ma si chiama Leningrado. Ma siete una massa di assassini. Si chiama Pietroburgo. Io voglio capire una cosa, tu sei andato là grazie anche ai soldi del vitalizio, perché tu campi col vitalizio, diciamo la verità, campi col vitalizio. Ho fatto 20 anni di Camera, mica è un ladro, Camera e Parlamento Europeo. Non ho capito. E poi ho fatto 18 anni di IMSS. E quello c'ha diritto. 38 anni. Ma che c'entra? Io ho lavorato da piccolo. Ma sì, ma tu prendi 4.500 euro di vitalizio. E ne do metà al partito. Chi lo fa? Non ho guadagnati. E ne do metà al partito. Chi lo populista fa? Che sei. Metà al partito, guarda, tuo. Che c'entra? Il partito è tuo. È ma mio. Che vuol dire? Ma ho capito, mica è obbligatorio dare al partito. Tu prendi 4.500 euro di vitalizio, giusto? Ma tu quando pigli? Ma che c'entra? Ma è una vergogna che tu pigli dopo 20 anni 4.500 euro? Ma le ha pagati i contributi? Perché devi dirgli così, scusa? Che vuol dire? Perché è un privilegio. Ma quale privilegio? Non è un privilegio. Io ho firmato per levarli. Puoi anche non condividere le idee di Rizzo, che infatti io non condivido, ma è una garanzia il fatto che abbia un vitalizio. Io sono felice. Una garanzia, 4.500 euro per 20 anni. È una garanzia della democrazia. Ha lavorato, ha fatto il deputato, non ha rubato. Non è del clan degli Spada. Non è del clan degli Spada. Ma state scherzando? Un signore che ha rappresentato il popolo. Io sono d'accordo con lui. Io mi l'ho fatto un giorno. Come vitalizio prendi 4.500 euro. 4.450. Rispetto al 20 anni. Rispetto ad un operaio. Dopo che ho dato. Fermati. Io ho dato 850.000 euro di contribuzione. Lo avete deciso voi. Ve li siete decisi voi i soldi. Sono sempre soldi nostri. Decisi da chi? Sono sempre soldi nostri. No, quando li hanno decisi io non c'ero. L'hanno deciso. Ah, vabbè, però. Costituente. Ma che no, ma questi sono regolamenti della Camera e del Senato che i politici sono fatti da soli. Senza questo vitalizio tu non camperesti, ovvio, è ovvio, no? Ma io so dipingere. Ammetti adesso che è un privilegio. Ma perché dovrebbe essere un privilegio? Secondo me non è un privilegio. Non è un privilegio avere il vitalizio, no, rispetto a quello. Rispetto ai soldi versati da altri. Dopo 20 anni tu prendi 4.450. 4.450. Ho versato tanto dei biglietti. È un privilegio. Innanzitutto perché lo prendi già adesso, innanzitutto, non io a 67 anni. Sto dicendo che l'incasso e ne devolvo metà al partito. Ma quella è una tua libera scelta, il partito è tuo, personale. Come me. Tu da proletario quale sei? Dovresti ammettere, sono un privilegiato. I privilegi sono le differenze di classe. Ma dai, le differenze con di classe. 4.000 euro. 4.000 euro che ci fai? Pensi a Marchionne o parli di 4.000 Cioè perché euro? Sono tanti, sono pochi secondo te, non ho capito. Sono abbastanza, ma pensa quanto guadagna Marchionne. La gente per 4.500 euro di pensione farebbe qualsiasi cosa. È un giochetto quello che fai. Ma come un giochetto? La gente del tuo 730. Ma che c'entra il 730? Io soldi li prendo da un'azienda privata, mica dallo Stato. Gli altri non hanno questo privilegio di decidere di andare in pensione così. Tu quanti anni hai, scusami? 59. Tu prendi già 4.500 a 59 anni. Un operaio normale adesso vai in pensione a 67. Adesso sei un privilegiato, sì o no? Sì, sei un privilegiato, ma non lo vuoi ammettere. Ciao Marco, ti saluto. Ciao, ciao. Lasciati un parento e alla defecarsi io non ci penso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Vi piace un mondo così? Vive nel cassetto troppi sogni da realizzare. A me fa cagare! Se la noia galoppa ti viene incontro la tecnologia. Parenzo! Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Crociani, mi ha detto Ale Longoni che ti stai interessando dell'orgasmo del capezzolo. Allora ti racconto sta cosa. Qualche anno fa conosco sta ragazza della Repubblica Ceca. Capelli rossi, pelle bianchissima, alta, un po' grossa, non bella, onestamente. Morale, finiamo a letto e lei mi dice di avere due superpoteri. Il primo è che viene a raffica continuamente, effettivamente ogni 2 per 3 sta ragazzona ansimava, urlava, diventava tutta rossa, tutta sudata. E il secondo è proprio che può venire stimolandole anche solo i capezzoli. E allora mi metto lì l'impegno, un po' con le dita, un po' con la bocca, un po' con le dita, un po' con la bocca. E tac, questa è tutta rossa, tutta sudata, una roba impossibile da fingere. Gran bei ricordi. Siamo al top. Ciao Parenzo Capezzolino. Amico di Longoni. È il numero amico uno. Di Longoni. Signor Donni. Ora, si chiama. Sì, sì, perché signor amico Donni, di Longoni. Ma non faccio domande, non faccio neanche considerazioni sugli amici di uno dei redattori della trasmissione. Vabbè, non è quello il tema che mi sconvolge. Ma come, non è questo? State svilendo il sesso. Cioè, rendete il sesso una cosa talmente banale, volgare e così, che quando fai quelle cose, magari sei lì, no? Che tutti noi che ci viene voglia di farlo, poi ripensi alle conversazioni della Zanzara, non ti viene più voglia di farlo. Cioè state tu dici ammosciamo, distrugge, cioè non stiamo stimolando il senso, lo ammosciamo. No, perché rendete così nel particolare morboso la... Poi questi qua che raccontano dei loro, ma delle loro imprese tu con dici, le loro non fidanzate. Ci credi, dici, non ci credi. Ma no, ma ci credo perché è drammatico il paese, certo, ma ci credo perché c'è una parte di gente che si autoumilia in pubblico. Ma tu immagini le fidanzate di sti ragazzi. Che comunque ragazzi, io ancora stavo riflettendo sulla frase della Boldrini sul fatto che bisogna coinvolgere di più gli uomini nella vita domestica. Questo è giusto, è già così. Ma no, però ma a parte la giusto Boldrini non giusto, ognuno decide nella propria famiglia come cazzo fare senza che ce lo dica la Boldrini, scusa se permetti, ancora c'è una libertà di scelta all'interno delle famiglie. E poi forse non è abituata a guardare la realtà di quello che avviene nelle famiglie italiane. c'è qui in giro, e Parenzo è una prova evidente di questa roba qua, siamo circondati da uomini che sono diventati ormai degli zerbini, cioè sono diventati sono al servizio delle loro mogli o compagne, cioè non c'è più quell'autonomia, quel senti, mi voglio fare i cazzi miei, non mi interessa se mia figlia, non voglio pulire il culo a mia figlia, per chi porta più soldi, io o tu, a seconda dei ruoli, ovviamente uomo o donna che sia, cioè non mi rompere i coglioni, non mi voglio soldi. Alzare la notte, è di quello che ti va o non ti va, se senti, ti va di farlo, se non ti mi va. Sono mai alzato, va bene, mia, non mi sono mai alzato, bene per te, bene, benissimo, io sono contento di turni, averlo fatto tante il volte, passeggino, i turni, sono contento di aver vissuto i miei figli anche da quel punto di vista lì, sono contento, uomini costretti a pulire la merda dei ragazzini, costretti, può essere una cosa bella anche di crescita, Marco, insieme del bambino. Di Forlì, Marco, poi per carità, ognuno fa come gli pare. Marco, provincia di Forlì. Non è che me l'hanno fatto. Mio padre se n'è sempre sbattuto, nessuno ha detto nulla, non ha avuto niente da dire. A casa tua era così, a casa mia padre lo faceva sempre, non era una Marco, cosa. Dalla provincia, eppure di uno stimatissimo avvocato, ma lo ha fatto per tutti noi due fratelli. Marco non... dalla provincia di Forlì. Puliva anche il nostro vomito, ma non mi pare una cosa così terribile, anzi. Io lo ricordo con grande piacere. Ma che ti ricordi un cazzo, Marco? No, mi ricordo quella volta adolescente che tornai a casa, vomitai tutto per terra, erano le 4 del mattino, raccolto, ma quello che c'entra? Io lo mi ricordo quando puliva il sedere a mio fratello, cioè, siamo circondato ormai, ma noi siamo cresciuti così, ma non è che tutti devono per forza fare quello che abbiamo, che Marco, ci hanno insegnato, dimmi. A noi cioè. Due cose velocemente, volevo chiedervi cosa ne pensate del fatto che ovviamente non sta venendo fuori nessuna riguardo le molestie, nessuna di quelle che invece, perché adesso fino adesso abbiamo parlato sempre di quelle 10 patetiche che hanno denunciato. Beh, patetiche, alcune non sono patetiche. Una è vero che una ha detto che è andata lì, si è spogliata un giorno e poi è tornata. Questo un po' è bizzarro. Dai, sono pietose, ma a parte quello, ma io dicevo. Come cioè, mai per esempio, adesso scusa, mi è uscita fuori un'accademia di recitazione dove lui è stato allontanato. Sì. Dove è stato allontanato dopo la denuncia di alcune allieve, in cui la direttrice di questa accademia di recitazione dice che lui non sa tenere le mani a posto. Ecco, male che lo dica adesso, però la direttrice. Sì, è vero, però magari... molto male, anche perché quello non so se è una scuola pubblica o privata, non mi interessa. Sì, però magari non c'erano nemmeno le modalità per denunciare, non c'erano. No, scusami, però non c'è un dato fatti di fatto per denunciare, no? No, c'è il dato di fatto che lo hanno cacciato dalla scuola, così lei dice, io non lo so, apprendo. Ma mica la scuola pubblica, è una scuola di recitazione privata dove lui faceva il maestro, il professore. Ma che c'entra? Ma se l'hanno cacciato, l'avranno cacciato perché l'hanno ritenuto indegno di stare lì. Ho capito, ma magari non c'erano i termini per una denuncia dai carabinieri, non so come dirti. Non è che tutto va risolto dai carabinieri alcune volte, no? E lo dice oggi, però. No, effettivamente, quando uno dice non sa tenere le mani a posto, e lo dice oggi, significa che ha messo le mani addosso a qualcuno. Non lo so, mi pare che sia. No, ma io quello che vi volevo sottoporre è come mai non sta venendo fuori nessuno invece di quelle che hanno accettato? Perché se ti credo, ma scusa, come possono venire fuori? Logico, scusi. Basterebbe andare, cioè prendere i film, perché tanto se Brizzi aveva quel modus operandi. Non è vero, perché magari da furbacchione poteva agire su quelle che non avrebbe mai assunto, con cui non lavorava mai, no? Cioè, ce ne sarà qualcuna che ha assunto, certamente non ce l'ho. Perché i giornalisti non il microfono sotto il naso a queste? Ma ho capito, ma perché tutte diranno, diranno non ho mai fatto nulla, sei sempre comportato da signore. È importante sapere quelle che ci sono andate. Scusa, che amico che, mio, hai ragione, ma è difficile scoprirlo, è impossibile. Non ne parla nessuno. Ma però, che cazzo te l'ha detto, non ne parla nessuno. Comunque è molto bella la lettera di Claudia Zanella, cioè della moglie di Brizzi. Moglie, è normale che lo difenda, ma di che parliamo? Non è normale, cioè, è una cosa interessante. È molto. Hai letta la lettera? Sì, ma non c'è tempo. Vi invito a tutti a leggerla. Caro Parenzo, vorrei aprire uno squarcio su una cosa. Esiste un festival fruttariano che apre a Milano, il Festival dei Fruttariani. Una delle protagoniste sarà una ragazza che si chiama Samantha, che non so quanti anni abbia. Samantha, quanti anni hai? Non si dovrebbe chiedere, però te lo dico, ne ho 33. 33, vabbè, 33 anni si può dire, non è che ce n'hai 75. Non ne ho più 18, insomma. Vabbè, 33 anni non mi sembra che sei una, no? Si può dire tranquillamente. Samantha Airoldi è una fruttariana addirittura crudista. Ebbene sì. Ecco, ma che cosa vuol dire essere crudisti? Fruttariano, quindi? Innanzitutto, fruttariani significa, caro Parenzo, se non lo sapessi, mangiano solamente la frutta. Solo frutta, no, certo. No. Mangiamo frutta dolce, frutta grassa e frutta ortaggio. Che vuol dire la frutta grassa? Scusa, no, non mi ricordo più, me l'ha detto. Non ti ricordi più, ti rinfresco la memoria. Allora, vabbè, frutta dolce, tutta quella che conosciamo un po' tutti, quindi mele, pere, banane, ok. Sì. Frutta grassa. Avocado, olive e olio extravergine d'oliva, possibilmente denocciolato. Bene, poi? frutta ortaggio sono pomodori, cetrioli, peperone, zucchina, zucca, melanzana. Per cui questa roba qui la mangi tu? E certo che la mangio, assolutamente sì. Per cui, diciamo, io ho fatto la scelta crudista e mangio tutto crudo. Perché non mangi cotto? Perché non mangi cotto? Spiegami. Perché mangiando crudo mantiene intatto tutto il patrimonio di vitamine e sali minerali dei frutti ortaggi. Con la cottura, però magari un po' vai a perderli. Qualcosa di cotto può essere più piacevole al gusto, diciamo, no? Allora, diciamo che quando vado al ristorante fruttariano del mio collaboratore al festival, sì, Fernando Bruno, che anche lui è organizzatore con me, sì, lui certo, fa dei piatti cotti fruttariani talmente buoni sei costretta a mangiare. Ecco, no, non sono costretta, però mi fa piacere. Ecco, lui ma fa di fronte, talmente buoni. Non c'è dubbio, di fronte a una bistecca, come ti comporti tu, cara Samantha? Cioè, di fronte... Ma io vedo un cadavere, guarda, non so cosa vedi tu, però quando vedo un animale morto, vedo una bella, io vedo un cadavere. Vedo una bella bistecca, una bella fiorentina, un bel filetto. Sei necrofilo? Non sono necrofilo, mi piace la carne. Ma che c'entra la necrofilia? Scusa, un morto è sempre un morto. Amica scusa mia, ammazziamo gli animali, sì, ne siamo consapevoli e ne siamo anche orgogliosi da un certo punto di vista. Va bene, sei orgoglioso siamo... di uccidere. Sì, no, di uccidere un animale, che è una cosa diversa da uccidere mia figlia. Non so se... E che cosa cambia? Cosa cambia? Spiegami. Per te uccidere cambia un bambino o uccidere una mucca è la stessa cosa? E chiedilo alla mucca, però. No, alla mucca no, non può parlare. Molto difficile chiederlo alla mucca, vedi come che, sai? Vedi però come sei. Tu stai, hai detto la cosa giusta, la mucca non può parlare, non può rivendicare i suoi diritti. Ma ho capito, allora, però non è un caso. Non può parlare, non può rivendicare i propri diritti, deve essere ucciso, massacrato, sì, preso ma a calci. La domanda è un'altra. Ammazzare un bambino o ammazzare una mucca è la stessa cosa per te? Per me una vita è sempre una vita. No, sì, ma però non rispondere in maniera così vaga. È la stessa detto, cosa, sì o no? Che penso. E dunque sì, è la stessa una cosa. Una vita è una vita. Dunque, in teoria, appunto, chi ammazza una mucca dovrebbe essere punito come quando si ammazza un bambino. Se, sì, se uno segue questo, sì, sì. E tu dici, sì, va bene, sì, io ammazzo una mucca e mi prendo l'ergastolo. Dovrei essere che condannato all'ergastolo. È normale, secondo te, questa roba? È normale? No? Sì, però, visto che mi stai intervistando, l'ergastolo ancora non te l'hanno dato. Ma lo dovrebbero, come sai, dovrebbero darlo all'82% degli abitanti dell'Italia che ancora hanno questo grave torto di cibarsi della carne, di cibarsi in maniera tassista. Allora, aspetta, dimmi, facciamo una distinzione però, perché tu sei un giornalista, sei informato e sei consapevole dell'azione. Peggio ancora, molte persone, peggio ancora, molte persone, appunto, tu sei responsabile di ciò che fai. Dunque io... Molte persone, sì, tra cui persone anche della generazione dei nostri nonni, non hanno questa informazione, questa cultura, quindi devono essere prima di tutto informati e messi bene al corrente. Dunque quelli che sono meno informati sono meno colpevoli, io che sono informato e so tutto invece sono una specie di organizzatore di un campo di sterminio, diciamo, no? Un collaboratore della grande... Questo addirittura non lo chiamerei così. Tu comunque partecipi a una e grande collabori strage al massacro di queste vittime, ma che in ogni bello, caso qui siamo bello per parlare del festival fruttariano, ora, senti, non per fare la morale a no, te. No, certo, per carità, cara Samantha, è anche una voce piuttosto come affascinante. Come si fa a cibarsi solo di queste cose? Non lo so, cara, francamente non lo so. E come fai tu a cibarti di cadaveri, ti chiedo io? E io stasera ad esempio vado a mangiare le tagliatelle al ragù, non ne posso fare a meno. E domani mattina vai in un obitorio, chiedi se ti danno un po' di carne di qualche cadavere, domani sera il ragù te lo fai dissuaderà, con quelli. Non mi dissuaderà. Ma non ti voglio dissuadere, io sono qui dalla per mia cena di questa sera. Benissimo, andremo tutti. Quello che vuoi. Andremo grazie, tutti al festival, cara, fruttariano, no, io verrò certamente a visitare gli amici fruttariani che non sono ottimo degli odiatori di professione, anche se pensano delle cose allucinanti, però voglio dirti una cosa, ma mangiando solo frutta, innanzitutto quanto si scoreggia, per esempio, ecco, una cosa esempio, concreta? Così, tanto per mettere la domanda lì. Guarda, penso che sia soggettivo. Io direi che tra me e te sicuramente scoreggi di più tu. Ma questo è probabile perché io questo sono sì, questo confermo anch'io che ci ho dormito in camera d'albergo più volte. Questo confermo però, anch'io. Cioè la frutta gli altarini. La frutta e sì, tutte le sue okay, e tutte le sue propaggini, come hai detto te, che non è solamente la frutta in senso frutta, come frutta grassa e frutta esatto, ortaggio. Esatto, tutta certo questa roba qui fa, come dire, libera un po' l'intestino, cioè fa no, emettere meno peti, il no? Il fenomeno di fermentazione a cui tu ti sì, riferisci brava, sì, sì, esatto, accade se tu ti mangi la frutta dopo sì, delle proteine animali o dopo degli amidi. Per cui no, non è così, non è d'accordo così. Se invece tu ti mangi, ad esempio noi fruttariani ci sì, mangiamo a colazione, pranzo, sì, durante il giorno solo frutta dolce, quindi nient'altro. Dunque, solo frutta sicuramente dolce sicuramente si scorreggia di meno. Non scorreggi proprio, se vuoi saperlo. Non scorreggi proprio. Beh. Non hai fermentazione. Perché e si scopa meglio. Scusate se mi inserisco nella vostra conversazione. Io, diciamo, ho una dieta normale e non ho flatulenze. Quindi per normale? Normale, nel senso che mangio la mia bistecchina, mangio il pesce, tutto. Frutta, verdura, tutto. Non mi faccio mancare nulla e non ho flatulenze. Scusate se mi sono inserito nella vostra conversazione. Scusami, si scopa meglio? Siamo felici per te che non hai flatulenze. No, Samantha, si scopa meglio? Scusami se ti faccio questa domanda, perché spesso ritorna come discorso, no? Cioè, i fruttariani. Vuoi sapere se da quando ero un'ariana, esatto, a ora che sono fruttariana crudista, sì, vivo la sessualità meglio? Certo, assolutamente, questo voglio sapere. Personalmente sì, però in che senso, reputo, scusa, che sia soggettivo. In che senso la vivi meglio? Cioè, c'hai più energia, hai più vigore, gli uomini che incontri sono più, no, più, no, più possenti, più forti. In che modo la vivi meglio la sessualità? La vivo meglio in quanto stando meglio con me stessa a livello di persona mi rapporto, cioè, anche gli uomini, altri. Gli uomini fruttariani più... sono più, come dire, sono più potenti sessualmente, secondo te, gli uomini fruttariani? Io sono qui per parlare del festival, non delle prestazioni. No, vabbè, lascia perdere il festival, che ce frega del festival, l'ho già detto. Ma a me interessa il festival. Ma l'ho già detto, dimmi almeno di quando ci ma sarà l'ho il detto, festival. Dai, l'ho già detto prima del tuo intervento. Dimmi, dimmi questa cosa qua, se Laura, sono più. Allora, vediamo se sei preparato, in quali date che ne ci so, sarà ma il che festival? Cazzo me ne frega, dal 17 al 19. 17, 18, 19 novembre. Lo stavo dicendo. Ma cosa succede poi? Gli uomini sono più potenti sessualmente o no? Spiegami, se sono più potenti, ti prego, lo voglio sapere. Sono più potenti, non hanno quel sudore puzzolente che avete voi, ecco, uomini onnariani. Anche qui chiedo scusa se mi inserisco nella vostra conversazione. Dobbiamo chiudere qua, ma io non sudo e non ho mai avuto problemi di questo tipo e nessuna Vabbè, si dai, è mai Parenzo, lamentata, tu sei cara. Alieno, allora, no, ma le chiedo scusa, credo. Ho brava, sudato brava, ma non puzzo, ad esempio. Chiedo ma scusa se mi intrometto nella vostra conversazione. A domani. A domani, ciao. David, l'uvolumoluni, ovo la banana. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lei lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.